La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola. In questa nuova puntata dell'ultimo giovedì del mese incontriamo il neo eletto presidente della Fondazione Girolamo Bortignon. I padovani sanno certamente di che cosa si tratta, Fondazione per l'Educazione e la Scuola, che ricorda il nome dello storico, uno degli storici vescovi di Padova del secolo scorso. Abbiamo al telefono il nuovo presidente Ernesto Burattin. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque, io ho detto il titolo, appunto, che è quello che si trova anche su internet, Fondazione Girolamo Bortignon per l'Educazione e la Scuola, ma vorrei che lei ci dicesse qualcosa in più sulle finalità e le attività di questa realtà padovana. Certo, diciamo che è stata una felice intuizione del nostro vescovo, allora vescovo Girolamo Bortignon, che ha colto la necessità e a quel tempo in termini profetici anche l'urgenza di individuare percorsi per le scuole, diciamo scuole cattoliche, relativamente all'educazione dei giovani. In questo senso l'ambito tocca sia la formazione degli insegnanti, sia la didattica, sia attualmente la pedagogia, e anche la ricerca in questo settore, non solo, ma la possibilità di individuare anche, quindi selezionare anche persone che possano entrare nel mondo dell'educazione in maniera opportuna. Questa visione profetica trova oggi una necessità ancora più urgente, quella cioè di accostarsi alle giovani generazioni con modalità anche nuove. E qui entriamo però nel prossimo futuro. Qual è la relazione della Fondazione con le scuole che già da tempo, addirittura da più di un secolo, esistono nel nostro territorio? In questo momento la Fondazione ha progettato percorsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti, fa anche selezione per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole e dà al suo interno anche un comitato scientifico. E qui troviamo un'altrettanta bella intuizione nel fatto che sono presenti due organismi, uno che è il consiglio di gestione, il consiglio di amministrazione, e l'altro il comitato scientifico. Perché questo? Perché il comitato scientifico ha proprio il compito, e i componenti che ne fanno parte hanno una grandissima valenza e spessore sotto l'aspetto didattico, sotto l'aspetto universitario, di studio e di ricerca, ha il compito di individuare quelle che sono le possibili piste progettuali da realizzare proprio in termini immediati, in termini concreti, in termini attuali, rispetto a quelle che sono le esigenze educative. Il consiglio di amministrazione ha il compito di realizzarle, nel senso di trovare le risorse, impostare le organizzazioni, impostare l'organizzazione per attuare quello che è la parte, diciamo, di pensiero forte. Mettere insieme quindi un pensiero forte con la realizzazione forte. Lei è appena stato eletto per il mandato che è di un triennio. Quali idee ha portato in campo e quali idee già dalle primissime riunioni di questi giorni? Diciamo che adesso è prematuro fare, indicare progetti precisi. Diciamo che in questo momento ci siamo dati come priorità fare la ricognizione dell'esistente e individuare quali sono i punti di partenza. Teniamo presente che c'è stato un governance precedente che ha portato a questi livelli la Fondazione Bortignon, conosciuta oltre la diocesi di Padova e addirittura del Veneto, ma anche a livello nazionale, e che ci dà la possibilità di una prospettiva assolutamente innovativa. Diciamo che ci sono alcune piste che stiamo individuando. Innanzitutto è quello di di essere, fare in modo che questa fondazione si regga con le sue gambe, nel senso che sia sostenibile e si sostenga, primo dato. Questo è un po' sull'onda di quelle che sono le indicazioni generali che il nostro Dio ci sta dando a tutte le fondazioni. La seconda cosa è quella di individuare la possibilità non solo di creare percorsi formativi, ma anche di arrivare a gestire situazioni che sono presenti nel nostro territorio e che hanno bisogno di essere seguiti e di proseguire in maniera opportuna nella loro attività didattica. Una terza pista è quella del collegamento con l'impresa sociale Insieme per Educare. Insieme per Educare è nata dall'unione delle forze della Fondazione Bortignon e della Fondazione Opere Immacolata Concezione, che hanno contribuito alla creazione anche del suo patrimonio e che si pone in questo momento come una realtà che legge, revisiona, imposta anche in termini organizzativi delle soluzioni per quelle situazioni nel campo educativo che sono critiche. Allora, mettere insieme una Fondazione Bortignon che ha queste competenze, questo spessore e anche, devo dire, ho visto con grande piacere una grande passione da parte dei componenti, e l'altra, Insieme per Educare, che ha più funzione operativa, uso il condizionale in questo caso che è d'obbligo, dovrebbe portarci ad avere uno strumento che consente alle nostre scuole di mantenere la qualità e anche di continuare nella loro azione educativa in un momento estremamente difficile, perché sia sotto l'aspetto sociale, sia sotto l'aspetto delle risorse, sia anche sotto l'aspetto dei rapporti, stiamo vivendo un momento complesso, e quindi ad un momento complesso e difficile vanno date risposte altrettanto articolate e il più possibile semplici, se vogliamo dare questo termine. E allora, il lavoro da fare è molto, appena iniziato per il nuovo presidente, il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Bortignon per l'educazione e la scuola, Ernesto Burattin, che è stato al telefono con noi. Grazie per l'intervento e buon lavoro. Grazie, e grazie anche ai suoi ascoltatori. La scuola si racconta, in collaborazione con l'Ufficio Diocesano Educazione e Scuola.